catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Eccoci qua, un saluto a tutte e tutti, nuova puntata di Senza Frontiere, la rubrica di Radio Wombat che parla di internazionalismo, storia, lotta e cultura dal mondo, uno sguardo particolare che va in onda appunto da Radio Wombat, la potete ascoltare in streaming sito wombat.noblogs.org, va in onda, dicevamo, tutti i lunedì alle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Oggi uno sguardo, un approfondimento sulla lotta, anzi il processo che stanno seguendo 35 migranti dell'Africa subsahariana, in questo caso provenienti in particolare da Mali, Congo, Guinea e Camerun, 35 migranti che nel campo di Moria, nell'isola di Lesbos, nel luglio scorso hanno iniziato una protesta e per questo appunto sono attualmente sotto processo. Processo che si sta tenendo nell'isola di Chios, un'isola vicina a Lesbos, ma che comunque provoca gravi difficoltà agli stessi migranti e ai testimoni che dovrebbero appunto deporre a loro favore. E quindi ci ascoltiamo, anzi diamo lettura di un comunicato da parte del team di legali e nello stesso momento del collettivo che sostiene 35 migranti, un collettivo che appunto, richiamando il numero e il campo in cui si è svolta la rivolta, si chiama Free de Moria 35, e successivamente un resoconto dei primi giorni di processo da parte di chi fa parte proprio del team di legali che stanno sostenendo i 35 migranti. Richiesta di solidarietà per 35 migranti del campo Moria perseguitati dalle autorità greche. Questo è il titolo del comunicato di solidarietà. Dopo la conclusione delle indagini preliminari, la data della prima udienza del processo per 35 migranti accusati di aver partecipato alla rivolta e si è svolta nel centro di detenzione di Moria il 18 luglio 17 è stata fissata per il 20 aprile prossimo alla Corte a giuria mista di Chios. Qualche parola sugli incidenti quel giorno. Da mesi i rifugiati si organizzavano per i loro diritti a causa dei ritardi nel trattamento delle loro domande di asilo e delle condizioni in cui sono costretti a vivere nel centro di detenzione. Il 17 luglio un gruppo di migranti, principalmente di origine africana, aveva annunciato che avrebbe continuato la protesta in azioni ripetute. La protesta annunciata era il risultato di varie proteste più piccole che hanno avuto luogo nel centro di detenzione della città di Mitilene. In quel periodo molti migranti si stavano organizzando per resistere alle politiche dello Stato e erano stati minacciati dalla polizia, la quale aveva affermato e avrebbe presto scoperto chi era il capo del centro di detenzione. Martedì 18 luglio, durante un sit-in di protesta al di fuori dell'Ufficio Europeo di Supporto per l'Asilo, proteste ha portato i dipendenti dello stesso a lasciare i loro uffici, le autorità sottolineavano che i migranti protestavano, erano a loro volta responsabili del trattamento ritardato alle domande di asilo, facendo sì che si creasse una conflittualità con un altro gruppo di migranti. Successivamente i migranti in fuga si lasciavano il campo per bloccare la strada principale, mentre urlavano fuori slogan fuori dal campo, le forze dell'ordine dall'interno e dall'esterno del centro di detenzione li hanno attaccati con gas lacrimogeni e granate stordenti. I migranti hanno risposto lanciando pietre e dando inizio a piccoli incendi. Dopo il conflitto l'interno del centro di detenzione era tornato alla normalità, ma le forze poliziane hanno iniziato una vera e propria purga all'interno del campo e i migranti si sono trovati a dover affrontare le minacce della polizia antisommossa che ha preso d'assalto i container picchiando chiunque in modo indiscriminato per poi arrestare 35 persone a caso e arbitrariamente. L'unico criterio usato dalla polizia era il colore della pelle. Gli arrestati sono stati portati al Dipartimento di Polizia Centrale di Lesbo, dove sono stati trattenuti senza aiuto medico, nonostante avessero subito gravi percosse. Solo uno degli arrestati è stato portato con un'ambulanza all'ospedale direttamente dal centro di detenzione a causa della perdita di coscienza dopo aver subito un colpo potenzialmente mortale alla nuca. Durante il mese seguente circolavano voci su arresti complementari che terrorizzavano ancora di più i migranti e la situazione in sicurezza creava un'atmosfera di impotenza e passività. Dopo essere stati picchiati e terrorizzati, 35 accusati sono stati portati di fronte a un investigatore, accusati di gravi accuse, tra cui in particolare il cosiddetto incendio doloso aggravato dalla messa in pericolo della pubblica incolumità, un'accusa che può portare a una condanna a molti anni di reclusione. Le altre tre accuse, quindi in totale quattro, sono lesione aggravata, tentato oltre eseguito a danno della polizia e dei vigili del fuoco in concorso, danneggiamento aggravato, resistenza aggravata e travisamento con trasporto di oggetti potenzialmente pericolosi. E quindi la Corte ordinava la detenzione preventiva per 30 degli accusati, mentre i rimanenti 5 hanno visto ordini di residenza restrittivi sull'isola e l'obbligo di presentarsi al Dipartimento di Polizia dai 30 due volte a settimana. Dei 30 detenuti attualmente 10 sono in carcere sull'isola di Chios, 13 ad Atene e 6 nei centri di detenzione minorile di Avlona, mentre uno è stato trasferito alla prigione di Malandrino nella Grecia centrale. Da questa separazione sono derivati ulteriori gravi problemi perché si è aggravato enormemente il loro isolamento e la loro incertezza, mentre sono stati posti ostacoli significativi alla loro preparazione per il prossimo processo. Una pratica, tra l'altro, questa applicata anche in passato a prigionieri politici. Inizialmente la loro difesa, cioè dei 35 migranti, era stata assunta da avvocati attivi nelle ONG dell'isola. E dal momento in cui il caso ha iniziato a attirare l'attenzione, altre organizzazioni non governative sembravano intenzionate ad adottare alcuni dei casi giudiziari. Tuttavia, solo pochi giorni prima della data del processo, le organizzazioni non governative Solidarity Now, Metatrasi e Sinipraxis Lesbos hanno annunciato il loro ritiro del processo. Una situazione quindi già problematica che risulta gravemente aggravata dal momento che gli imputati devono trovare in poco tempo sostanzialmente nuovi avvocati. 9 dei migranti saranno rappresentati da avvocati appartenenti a gruppi di solidarietà. Il ruolo, oltre che rappresentati da avvocati di organizzazioni non governative. Il ruolo che le autorità giudiziarie svolgono nelle pratiche anti-insurrezionali diventa anche chiaro per la sede del tribunale scelto. Il trasferimento del processo a Chios, infatti, è in contraddizione alla decisione della Corte di imporre ordini restrittivi a 5 imputati. Nonostante i giudici siano consapevoli della precaria situazione finanziaria degli imputati, il processo si svolgerà a Chios e dovrebbe durare diversi giorni, il che comporta enormi costi di residenza oltre alle spese di viaggio. Inoltre, l'ubicazione del processo crea gravi limitazioni alla presenza dei testimoni in loro difesa. Poiché molti degli eventi, gli eventi hanno preso parte sono stati effettuati, diciamo, si sono stati al centro di detenzione Moria, molti dei testimoni oculari sono migranti sottoposti a restrizioni amministrative che non hanno la possibilità di lasciare Lesbo. A causa del trasporto limitato tra le due isole, la presenza quotidiana è resa impossibile, per cui i testimoni dovrebbero mettersi, quelli che non sono migranti, dovrebbero mettersi in pausa lavoro per un periodo di tempo indefinito e con costi ragguardevoli. La rimozione delle testimonianze essenziali funge da pretesto per l'atteggiamento vendicativo e premeditato delle autorità giudiziarie nei confronti dei migranti perseguitati. Sempre più organizzata quindi prende forma la decisione per la creazione di spazi di eccezione ai confini europei, e questo ne è un particolare esempio. Spazi in cui tutti loro non hanno perso la vita durante i loro passaggi saranno trattenuti e subiranno gravi violenze e violazioni dei propri diritti. Per mezzo di un sistema di degrado umano i migranti saranno classificati come voluti o indesiderati, e quelli voluti serviranno come nuova forza lavoro necessaria dall'Europa, mentre allo stesso tempo forniranno un alibi per le politiche contro le migrazioni. Il resto sarà inevitabilmente criminalizzato. La loro unica altra opzione è, da parte degli Stati, la deportazione nei loro paesi di origine o in paesi terzi. Inoltre le popolazioni migranti sono diventate il nuovo nemico interno. I media aiutano nella costruzione delle realtà sotto minaccia in modo da giustificare l'esistenza del socialmente necessario. I migranti sono ritratti biologicamente e culturalmente inferiori o come portatori di malattie contagiose, mentre d'altro canto sono collocati in campi privi di strutture sanitarie. E l'uso di una retorica militarista con la quale i migranti vengono presentati come invasori giustifica le forze armate, in questo caso greche, ma anche europee, a prendere posizione ai confini per difendere la fortezza Europa. Dato il contesto, Lesbo è stata scelta per la seconda volta nella sua storia recente come campo principale per le applicazioni delle politiche di confine anti-migrazione all'inizio della cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale. Di conseguenza sono emerse nuove forze militari e polizia e diversi tipi di centri di detenzione, oltre all'incoraggiamento di un distacco sociale al fine di generare consenso per la politica di morte che si sta svolgendo. La decisione di schierarsi ai 35 arrestati non ha nulla a che fare con un criterio di innocenza né una lotta antirazzista unidimensionale. La persecuzione subita dai 35 può essere capita solo se vista solo come un altro aspetto delle politiche anti-istituzionali che sono state stabilite da diversi governi e che sono state messe in pratica dal governo di sinistra di Syriza, il sinistra tra virgolette. Il declino dei movimenti per la lotta ai classi e ai movimenti sociali porta all'approvazione e all'accettazione di attacchi per le persone che si trovano al fondo della società. Una pletora di strumenti oppressivi di natura poliziesca, giudiziaria, amministrativa ed economica sono utilizzati contro coloro che cercano di resistere. La crescente militarizzazione delle forze di polizia e la creazione di spazi di eccezione nei campi di concentramento dei migranti, le nuove riforme del codice penale sono sono una sorta di ricatto. Le autorità vogliono effettuare il processo utilizzando un buco nero spazio-temporale per limitare ogni azione di solidarietà. Per questo motivo è essenziale rendere pubblico un altro esempio di utilizzo arbitrario del potere diretto verso uno dei gruppi sociali più oppressi. Chiediamo ai singoli, gruppi e organizzazioni di solidarietà di organizzare iniziative e controinformazione. L'account Twitter a Free de Memoria de Moria, scusate, a Free de Moria 35, l'hashtag Free de Moria 35 è stato creato per lo scopo della campagna solidarietà, mentre i media auto-organizzati saranno utilizzati per informazioni e aggiornamenti precisi. Firmato l'Assemblea di Solidarietà per 35 migranti perseguitati di Moria. E questo era appunto il comunicato. Prima di farvi ascoltare la corrispondenza da parte di un solidale direttamente all'estero, se ci sentiamo un pezzo musicale, sono gli Asian Dub Foundation con Fortress Europe. Erano appunto gli Asian Dub Foundation. Vi facciamo ascoltare la corrispondenza riguardante le prime fasi del processo ai 35 migranti. Ciao a tutti ascoltatori, qui Alfione Alfuan direttamente dall'isola di Lesbo, Grecia, e proverò a fare un piccolo resoconto degli ultimi avvenimenti che sono capitati sull'isola e un piccolo, diciamo, aggiornamento sulle vicende processuali che riguardano i 35 arrestati del campo Moria. Partendo dal secondo argomento, il processo sta continuando, dopo aver sentito i primi testimoni e aver spiegato le accuse, il procuratore generale ha interrogato i poliziotti e i due vigili del fuoco sulle cui testimonianze si erano basati gli arresti, i quali si sono contraddetti in tutti i modi in cui potevano, e quindi il procuratore ha cominciato a controinterrogarli. E un piccolo spunto divertente: il vigile del fuoco che grazie alla cui testimonianza sono state arrestate tre persone, quando gli è stato chiesto di indicarle ha fatto alzare tre persone sbagliate. Detto questo, non si sa come possa evolvere perché è un processo a giuria mista e quindi ci sono sia giudici che diciamo civili, e il momento in Grecia non è molto favorevole. In più, queste persone sono già state trattenute in galera per più di 9 mesi, e quindi non lo so, l'opinione pessimista è quella che comunque troveranno un modo di condannarli. Per quanto riguarda invece quanto è avvenuto domenica sera, da circa una settimana un nutrito gruppo di afghani stava protestando per le condizioni in cui sono costretti a vivere e per le lungaggini delle richieste d'asilo, e il 21 aprile in Grecia è un giorno abbastanza significativo, perché è il giorno in cui i colonnelli rovesciarono la dittatura nel 67, e di norma estremisti di destra e fasci, perché poi di quello trattasi in questo paese, ne approfittano per fare tutta una serie di azioni fondamentalmente violente. Domenica i fasci, molti dei quali provenivano da Atene, almeno un centinaio venivano da Atene, hanno fatto un evento per chiedere la liberazione dei due Marò greci. Anche la Grecia ha voluto raggiungerci con i Marò. E cosa succede? Dopo che si radunano e chiedono, fanno un presidio di fronte al comune, cioè una roba insensata, naturalmente era tutto molto premeditato, si spostano verso il centro e raggiungono la manifestazione degli afghani. E fondamentalmente la circondano. Per le prime 2 ore sono volati dei gran cori, la polizia si è frapposta tra profughi e fasci, e con un gruppo di solidali abbiamo raggiunto i profughi per cercare di capire, comunque per supportare un gruppo di antifascisti locali abbastanza leggero, anche perché molti degli antifascisti locali erano ad Atene per un'altra manifestazione, quindi eravamo proprio pochi. I profughi ci hanno chiesto a più battute di non fare nulla, anzi, di richiedenti asilo, scusate, non profughi, ma si può usare lo stesso. Ci hanno chiesto a più battute di non far nulla e non hanno accettato nessuna provocazione. Dopo un paio d'ore è cominciata la bagarre, nel senso che sono cominciate a piovere pietre, petardi, e sono cominciati gli attacchi molto ben studiati da diverse parti, da diversi punti di questa piazza, anche perché i chiedenti asilo si trovavano nel centro di una piazza raggiungibile da almeno 6 vie. Tutto questo veniva fatto con un'organizzazione massiva, militare, e con il benestare delle forze dell'ordine, che come sempre si contraddistinguono per essere complici dei fasci, fedeli nei secoli dei secoli. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che la piazza venisse attaccata da più punti e che si trovassero nel pericolo diverse donne e molti bambini, che a un certo punto, grazie all'aiuto dei solidali eccetera eccetera, sono state allontanate dalla piazza, e in centro della piazza sono rimasti fondamentalmente solo giovani e uomini. Tuttavia la polizia ha scientemente fatto avvicinare al più possibile i fasci, non li ha mai caricati, non li ha mai toccati, e ogni volta che veniva lanciato un lacrimogeno veniva lanciato in mezzo a noi. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che comunque la presenza delle persone diventasse sempre meno. Fin quando a un certo punto la polizia ha detto che la piazza non era più, non si poteva più mantenere la sicurezza, e questa è stata la cazzata finale verso le 4:30 del mattino. Tenete conto che gli attacchi sono durati almeno 9 ore. E gli afghani hanno resistito senza neanche reagire una volta, cioè questa è stata una roba pazzesca. Comunque alla fine dei conti i ragazzi delle forze dell'ordine greche, che tra l'altro qui sull'isola sono quasi tutti i corpi speciali per la questione dei rifugiati, quindi sono veramente addestratissimi, hanno circondato il gruppo di richiedenti asilo, ci ha gentilmente caricato a tutti gli altri per farci allontanare, con delle dosi di spray peperoncino da uccidere dei cristiani. È andata bene che, diciamo, chi si è trovato nel mezzo aveva abbastanza esperienza da potersi levare dal cazzo in tempo utile. Li ha circondati e ha cominciato a pestarli. Li ha pestati e dopodiché li ha trascinati uno a uno su dei pullman e ne ha messi in arresto alcuni. Successivamente si è scoperto che in realtà tutti e due i pullman andavano in questura e sono stati trattenuti 122 afghani per 24 ore. Sono stati tutti denunciati per resistenza pubblico ufficiale, occupazione di suolo pubblico, interruzione di studi di pubblico servizio, nonostante fossero in una piazza pedonale, e sono stati poi denunciati due antifascisti, a quanto risulta. Nel frattempo, oggi è uscita la notizia che la Procura Generale di questa città ha iscritto nel registro degli indagati 17 fasci, che due dei quali per reati piuttosto gravi, pare un tentato omicidio, quello che ha lanciato la Molotov. Tutto ciò però è comunque nato dal fatto che la polizia non è intervenuta in nessun modo. L'unico intervento che ha fatto è stato quello di pestare i 200 richiedenti asilo che manifestavano, ma li ha pestati, pestare tutti i solidari che sono intervenuti, comunque intossicarci tutti quanti, e non ha mai alleggerito, diciamo, la pressione che i fasci hanno fatto, anzi a un certo punto li ha proprio fatti avvicinare, e si è visto, perché c'erano tutta una serie di questi membri, non si sa quali fazioni, che parlavano con la polizia. Ultimo aneddoto e poi vi saluto, anche perché non posso parlare sempre solo io. L'ultimo aneddoto è questo: a un certo punto siamo qualche solidale, è andato a parlare con la polizia chiedendo aiuto, dicendo allontanate sta gente perché è pericolosa, e un ufficiale in borghese ci ha detto fareste meglio a portare via donne e bambini perché adesso arrivano le Molotov. E niente. Io vi saluto, vi abbraccio, saluto tutti i compagni, tutte le compagne in ascolto, tutti gli ascoltatori di Radiogramma, e continueranno gli aggiornamenti nelle prossime settimane. Ciao a tutti, bella ragazzi! Finisce qui questa puntata di Senza Frontiere. Vi ricordiamo che la state ascoltando dal sito wombat.noblogs.org, la state ascoltando in streaming. Senza Frontiere va in onda il lunedì alle 13.30 appunto, e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Per chi non la potesse ascoltare durante questi orari, potete ascoltarla tramite podcast direttamente, oppure scaricando il podcast e ascoltarlo successivamente. Tutto ciò potete farlo andando appunto in primo menu sempre del sito wombat.noblogs.org, menu a tendina, ci cliccate sopra e in ordine alfabetico sono elencate tutte le trasmissioni e quindi tutte le puntate di tutte le trasmissioni Radio Wombat, e appunto su la dicitura Senza Frontiere ci cliccate sopra e vi appare la pagina con tutti i podcast delle trasmissioni di Senza Frontiere, qui appunto anche l'ultima. E vi salutiamo, ciao ciao.